Quando spunta la luna a marchiar, pure le piscine fanno l'amore. Se rivoltano l'onda del mar, la brezza cagna nel colore. Quando spunta la luna a marchiar, a marchiar ci sta una finestra, la passione mi c'entuzzule, lo carofano attore, dinto la testa, passa la copa sotto e murmule. A marchiar ci sta una finestra. C'è sta una finestra. Sti due stelle li sacce solamente in dal cuore ne tengo li ponte. E dice che le stelle sono lucenti. Scetato caroli all'aria dolce, quando mai tanto tempo ha già aspettato. Accompagnare suona con la voce, stasera una chitarra già portata. Scelta di caroli, all'aria dolce. Scetate caroli, che l'aria è dolce.